Un giorno capiremo chi siamo senza dire niente, sembrerà normale. Immaginare che il mondo scelga di girare attorno a un altro sole. È una casa senza le pareti, da costruire nel tempo, costruire dal niente come un fiore fino alle radici. È il mio regalo per te, da dissetare, crescere. E siamo montagne a picco sul mare, dal punto più alto impariamo a volare. Poi ritorniamo giù, lunga discese pericolose, senza difese. Ritorniamo giù a illuminarci come l'estate che adesso brilla, come era il mondo prima di te. Un giorno capiremo chi siamo senza dire niente, niente di speciale. E poi ci toglieremo i vestiti per poter volare più vicino al sole. In una casa senza le pareti, da costruire nel tempo, costruire dal niente. Siamo fiori, siamo due radici che si dividono per ricominciare a crescere. E siamo montagne a picco sul mare, discese